Questa casa non è un albergo. Di Nicoletta Carbone e Alberto Pellai. Bentrovati ad una nuova puntata di Questa casa non è un albergo. Siete tutti invitati a partecipare alle conversazioni che si svolgono nel salotto familiare della nostra, che è poi la vostra radio. E stamattina qui sul tavolo, devo dire, io sono molto contenta perché ho un piccolo cuore rosso di cioccolato. Me l'avrà lasciato un ammiratore segreto, ma vedo che qua già che sghignazza. Tu speravi che qualcuno ti avesse lasciato e invece sono io, perché magnifico. Lo sai. Sai che ci vogliamo bene anche se non siamo innamorati, ognuno nelle sue famiglie, però la nostra è una fortissima intesa emotiva, intellettuale, affettiva. Ci piace fare questo programma insieme. Bravo. Siamo la mamma e il papà d'Italia, almeno al sabato dalle 12 alle 12.45. Va bene, 824 0024, questo è il nostro numero verde. I messaggi al 349 238 6666, Luigi Borghi in regia, in assistenza, volevo dire, Giacomo Spunti in regia alla parte tecnica. Alberto, oggi, cuoricino a parte, è un giorno speciale, prendiamo proprio spunto dalla data di oggi per parlare dell'educazione all'amore che attraverso noi genitori e tutto il contesto in cui viviamo viene data e cerchiamo di dare ai nostri ragazzi. Ci muoveremo attraverso diversi temi, Alberto? Sì, ci interessa un po' questo tema, se volete, romantico del primo bacio, in un momento in cui i ragazzi sono spesso sulle prime pagine dei giornali perché usano la sessualità invece in un modo totalmente non romantico, in un modo molto violento, poco affettivo, poco relazionale. Vogliamo riflettere insieme a voi proprio sull'aspetto bello dell'entrare dentro al percorso dell'amore quando stai crescendo, e anche sulle attenzioni educative che come genitori dobbiamo avere. E siccome il primo bacio rimarrà comunque il tema portante, il filo rosso di questa trasmissione, quello che abbiamo dato noi e quello che invece si danno, si sono dati o si daranno i nostri figli? Certo, quello che stiamo magari aspettando proprio nella vita dei nostri figli, chissà se ce lo raccontano. Vi facciamo ascoltare una piccola testimonianza presa da un piccolo cortometraggio molto bello presentato da Ciro Zecca al Festival dei Corti che ogni anno si svolge a Sondrio e che si chiama proprio Il Primo Bacio. Il mio primo bacio l'ho dato all'età di 16 anni. Ero con Totò, eravamo a Palermo, la Villa Giulia. È stata un'emozione fortissima e molto bella. Io ero impacciata, non sapevo come fare a tenere, non riuscivo ad aprire le labbra, pensavo che bisognasse tenerle chiuse, quindi mi sentivo le sue che premevano contro le mie, e poi alla fine, va bene, mi sono lasciata andare e mi sono lasciata gestire. Il mio primo bacio l'ho dato a 14 anni, ero su una panchina, e la cosa che mi è rimasta più impressa sono le emozioni che ho provato in quel momento. Da una parte ero contenta del fatto di essere lì con lui e provare queste emozioni nuove, da un lato invece la paura di entrare in questo nuovo mondo, questo mondo diverso. E però diciamo che è un bellissimo ricordo, perché da questo bacio è nata una storia bellissima che è durata 3 anni e mezzo e che mi ha fatto crescere, mi ha lasciato delle emozioni bellissime. Un pomeriggio, era il 4 maggio, era il mio compleanno, arriva questo ragazzo con un gran mazzo di rose, è venuto incontro, mi ha dato le rose e mi ha fatto un bacetto piccolo, era il primo che... poi adagio, perché una volta non è come adesso che subito succedeva il primo bacione. Il mio primo bacio è stato un po' di anni fa, nell'estate tra la terza media e la prima superiore, un ricordo bellissimo. Era con lui e l'emozione del primo bacio è una cosa che ti ricorderai per sempre. Il primo bacio non si scorda mai, Alberto. Non voglio chiedere a te, ma c'è differenza. Vorrei provare a lanciare un po' il nostro consueto sondaggio ai nostri ascoltatori. Una domanda io, una domanda tu. Perfetto. Quando è stato e come è stato il vostro primo bacio? Mi ha fatto tenerezza quella signora un po' avanti negli anni che diceva: prima un bacetto non è come adesso. Che è un bacione. Che è subito un bacione, Alberto. E proprio da genitori, quanto trovate nell'esperienza del vostro primo bacio rispetto a come i vostri figli vi hanno raccontato il loro primo bacio, naturalmente se l'hanno fatto. Se l'hanno fatto. In linea con noi abbiamo la nostra ospite, sono molto contenta che ci sia tornata a trovare Roberta Giommi, sessuologa e psicoterapeuta. Buongiorno. Buongiorno a voi, a tutti. Ma secondo lei, dottoressa Giommi, c'è differenza tra i baci di oggi che si scambiano, i primi baci di oggi e i primi baci di ieri? Ma credo il primo bacio, quello denso di intensità, che è poi il passaggio dal bacetto al bacio con la lingua, credo che a tutt'oggi rappresenti una cosa importante e emozionante, cioè perché a volte oggi passano più facilmente a fare il sesso. E forse il bacio resta ancora un segreto che ha degli aspetti di romanticismo anche dei ragazzi di oggi. Allora, andiamo ad ascoltare la nostra lettera che ci ha mandato un genitore, i nostri pensieri di padre. 824 0024, smettete di baciarvi, chiamateci e scriveteci al 349 238 6666. In queste settimane la cronaca ha parlato di ragazzi e amore, descrivendo soprattutto storie di violenza e di non amore. Inutile dire che come padre di tre figlie adolescenti mi sono spesso sentito in ansia e spaventato. Ho anche ripensato a cosa era per me il mondo delle ragazze quando ero adolescente. Era un mondo invitante e sconosciuto. Per me avvicinarmi alle ragazze significava non depredarle di qualcosa, ma conquistarle con la pazienza e l'amabilità. Non dimenticherò mai il mio primo bacio. A 16 anni, in una vacanza al mare con una ragazza che mi è rimasta nel cuore per tutta la vita. Mi sono chiesto se raccontare cosa è stato l'amore per me, come è stato il mio primo bacio, ha un senso per il mio mestiere di genitore. Oppure se storie come la mia sono ormai talmente fuori moda che produrrei l'effetto contrario. Farmi ridere dietro dalle mie figlie che mi considererebbero un inguaribile Matusalemme. E voi che sapete tutto, com'è e quand'è il primo bacio delle attuali giovani generazioni? A me sembra che un'esperienza fondamentale sia, dai più, buttata via come un cerino che va acceso e consumato il prima possibile. Alberto, che cosa ti ha prodotto questa lettera? Io so che tante volte parliamo con Alberto e mi dice: ah, le mie bambine, qua no, sono già in competizione, non voglio che nessuno all'asilo le guardi. Pensa, Alberto, quando ti toccherà, torneranno a casa Licio e Caterina e diranno: mi ha baciata. Dovrò fare quel salto anch'io come papà in tu questo svieni. Momento, vabbè, cercherò di stare in piedi. Mi sembra però molto interessante in questa lettera provare proprio a riflettere se davvero l'esperienza del primo bacio per i nostri figli in generale, l'entrare in una nuova dimensione che è quella della scoperta dell'amore, è una cosa che deve essere affrettata e consumata, oppure come magari ai nostri tempi doveva essere molto prima pensata, sognata, desiderata, preparata, prima che poi potesse avvenire. Cioè le azioni in questo momento arrivano prima dei pensieri che poi daranno a queste azioni un significato, o è il contrario? Ci si prepara e poi si entra nel percorso? Professoressa Giommi, i ragazzi, i primi baci, le prime esperienze sentimentali, che cosa vede dal suo osservatorio privilegiato? Ma dunque, le domande che i ragazzi e le ragazze fanno più spesso possono essere anche appunto sulla sessualità esplicita, il lavoro che dobbiamo fare noi che ci occupiamo dell'educazione all'affettività e alla sessualità, e probabilmente anche noi adulti e noi genitori, è di aiutare al fatto che non si brucino tutte le tappe, come diceva anche Alberto, perché questo poi porta al fatto che è più difficile immaginare che si potrebbe stare, non so, 20 minuti a baciarsi e basta, e poi accarezzarsi e basta, cioè che è una cosa tra l'altro dobbiamo oggi insegnare anche alle giovani coppie, che una volta raggiunta la sessualità completa spesso dimenticano che ci sono delle tappe anticipatorie che sono molto importanti, cioè quindi avere il tempo di pensare alle cose, di realizzarle gustandole, forse è qualcosa che oggi ci impegna tutti, proprio perché tutti tendono ad ingoiare piuttosto che ad assaporare. Professoressa Giomi, una domanda che ci poneva anche il papà nella sua mail. È importante raccontare cos'è stato per noi l'emozionarci per l'amore, cos'è stato il nostro primo bacio ai nostri figli, o rischiamo addirittura di fare autogol, cioè di portare a loro un'esperienza troppo lontana da quella che stanno vivendo nel loro gruppo di amici? Ma io non partirei raccontando, perché di fatto può essere che poi è come se fosse anche qualcosa di non richiesto, non perché non si debba parlare d'amore o di sesso anche non richiesti, ma forse potrebbe essere più interessante aprire un dialogo e quando è emersa una paura, un'esperienza, eccetera, poter mettere in comune, ecco, non partire troppo come se fosse un racconto pedagogico. In linea con noi abbiamo Mari Patruolo, ciao! Benvenuti, abbiamo anche Emanuele Bosi, i due protagonisti di questo Piccolo Grande Amore, un film tra l'altro che ha ricevuto critiche molto positive. Benvenuti, grazie per essere con noi, la nostra coppia di, innamorati. Siete giovani, parliamo del primo bacio. Ne avete parlato, ad esempio, il vostro primo bacio l'avete raccontato a casa? Ne avete, Mari? No, non subito, anni dopo sì, ho parlato con mia madre, chiaramente che adesso fa tutta la mia vita sentimentale, però ne ho parlato con la mia amica, chiaramente come tutti i ragazzi. Certo, anche per te Emanuele è andata così? Io però non capisco bene. Anch'io ti sento un po' lontanino, Emanuele. Allora, puoi ripetermi? Sì, vogliamo adesso ci sentiamo, sì Emanuele, se no ti facevo richiamare dalla regia. Parlavamo del primo bacio e insieme alla professoressa Giomi e ad Alberto Pellai cercavamo di fare un po' un confronto tra il primo bacio dei ragazzi di oggi e quello dei ragazzi di ieri, che sono poi siamo noi genitori, e si pensava se e quando Alberto diceva ma è giusto raccontare le nostre esperienze ai ragazzi, la professoressa Giomi diceva ma proprio raccontarlo bisogna instaurare un dialogo, poi le cose vengono fuori. Professoressa Giomi, ho sintetizzato bene? Sì. Ma sì, io penso comunque che non, a parte non ci sia una differenza tra il bacio di ieri e il bacio di oggi, insomma, è uguale, no? E i sentimenti sono sempre quelli, quindi poi si bacia allo stesso modo. Io vorrei, Alberto, io so che tu fremi perché vuoi sentire un breve estratto, vero? Sentiamolo insieme e poi ne parliamo, perché questo è un film interessante in quanto racconta una storia, proprio la prima vera grande storia d'amore di due ragazzi, come se fosse nel 1970, ma probabilmente ha molto da dire anche ai ragazzi di oggi. Ho incontrato una ragazza. Com'era? Bellissima. Quando ci stanno i testimoni, le ragazze sono tutte bellissime. Perché manifestate? Manifestiamo per un mondo più giusto, un mondo pieno di colori. Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati. Giulia! Se dai il numero così a un ragazzo, quello sai che pensa? Infatti non l'ho mai fatto prima. Allora ti piaccio? Sei matto. Vieni con noi stasera. O dovevamo chiedere permesso a Giulia? No ragazzi, guardate che io non devo chiedere il permesso proprio a nessuno. Mi dispiace. Senti, dammi un'altra possibilità. Giulia! Scendi! Ma questo è matto del tutto. E tu sei più matta di lui. Il ragazzo di mia sorella è partito per farmi ridare e lei se ne ha trovato subito un altro. Cerco, fa una cosa, non parla che è meglio. Giulia! Andrea! Giù quella testa! Le chiedo solo un permesso, capitano. Anche poche ore, solo per salutarla. Tu non ti muovi da qua dentro per tutta la settimana. Lei era un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore. Eccoci, Alberto, un po' di palpitazione, Ma probabilmente questa è stata definita la canzone del secolo, e dalla canzone del secolo è nato questo film, fatto uscire proprio in occasione di San Valentino. Voi probabilmente vi siete infiltrati anche in qualche sala cinematografica dove gli adolescenti di oggi guardano questa storia apparentemente senza tempo. Davvero le emozioni che raccontate toccano il cuore dei ragazzi di oggi, che sembrano così lontani invece da quell'esperienza, per così come ce li raccontano i giornali e le notizie di cronaca? No, invece vediamo proprio i spettatori piangere quando escono dal cinema, quindi l'abbiamo sicuramente toccati da questo punto di vista e ne siamo fieri, perché insomma è poi emozionare, trasmettere queste emozioni per noi è un traguardo. Emanuele, ma tu sei un ragazzo, solitamente i ragazzi sono molto schivi nell'entrare nel mondo delle emozioni e nel raccontarle. Per te come attore questo è stato un problema oppure no? Assolutamente no, perché poi mi sento molto anch'io molto romantico, quindi a me piace comunque entrare a questo, cioè proprio nell'amore dalla porta principale proprio, e provare questa emozione. Professoressa Giommi, forse siamo noi che non vogliamo vedere gli uomini romantici, invece ci sono, cioè, per fortuna. Anche Emanuele, no? Ha detto sì, sono romantico, mi piace entrare dalla porta principale. Ma credo sì che a volte appunto anche noi pecchiamo di uno stereotipo che gli uomini non piangono e gli uomini non provano sentimenti e emozioni. In realtà possiamo aver visto e nella nostra vita personale, ma anche nella vita delle persone che ci sono accanto, che incontriamo, che i maschi sono in grado di raccontare la gioia, il dolore, l'attaccamento, cioè, quindi su questo forse potremmo fare cambiare l'atteggiamento e avere più fiducia. Mari, cosa dici tu? Sono assolutamente d'accordo e ormai grazie a Dio si sta mettendo da parte questa idea che l'uomo per essere virile non deve più piangere, ecco, non può amare. Non deve chiedere mai, deve essere... Sì, esatto, non credo, almeno per le esperienze che ho avuto io, non credo sia più così. Finalmente anche loro hanno capito che possono piangere senza problemi, anzi che possono trovare in noi una spalla. Che liberazione, andiamo a Roma, sì. Ci chiama Cristina, buongiorno, benvenuta, si accomodi. Buongiorno, buongiorno. Allora, parliamo del suo primo bacio o quello di suo figlio o di sua figlia? Beh, no, la mia bambina è piccola, per cui... Per adesso li dà solo a lei, se le goda. Beh, io ascoltando voi ho ricordato la mia vecchia storia, insomma, oramai sono passati 25 anni, però è sempre presente, è una storia molto molto intensa che però è durata veramente pochissimo pochissimo tempo. Il mio primo bacio è stata una cosa bellissima, io ero la classica ragazza di 15 anni convinta di essere brutta e mai notata da nessuno . E mai assolutamente voluta da nessuno, e invece proprio il giorno che mi sono trovata davanti un ragazzo che mi sembrava proprio il principe azzurro, bellissimo, dolcissimo, ci siamo presentati e poi poco dopo mi è venuto lui a cercare per fare amicizia con me e da lì è partito tutto quanto, il primo bacio bellissimo, una cosa dolcissima, è stata una storia veramente molto intensa ma durata proprio pochissimi giorni, perché purtroppo dopo pochi giorni questo ragazzo è andato via proprio definitivamente, quindi la mia storia è anche molto toccante. E ha lasciato certo il suo segno. Ha lasciato il segno, bello. È molto... Alberto, anche tu hai una storia da condividere con noi? No, io in questo momento lavoro sulle storie degli altri, anche se non lo chiaramente anch'io mai. La mia piccola storia del mio primo bacio e chiaramente lascia il segno. Devo dire che quello che ci dice Cristina però è importante, perché nel ricordare il suo primo bacio c'è una ricchezza di elementi, il contesto, una storia prima, una storia dopo, un ricordo. E molte volte invece, lavorando con preadolescenti o adolescenti, ci si accorge che questa è una tappa che va un po' bruciata, cioè come se tutti si aspettassero da te che tu entri in questo percorso indipendentemente da chi, da quando, da come. Io volevo chiedere ad Emanuela e ad Emanuele e a Mari se quello che dice Alberto lo provano anche loro, lo riscontrano nel loro gruppo, è così? I ragazzi vanno subito al sodo, saltano il... Emanuele... Di solito il ragazzo tende magari un po' più a fare il passo più lungo della gamba, spesso, o è troppo timido e si chiude in se stesso, oppure magari è un po' troppo, come si dice, troppo repentino, però così è, penso siano... Perché poi alla fine siamo tutti uguali, uomo, donna. Voglio sapere che cosa dice la tua compagna, Mari. Ma come ha detto lui, alla fine poi dipende molto dal carattere di una persona, cioè quello che si butta a occhi chiusi e che tenta di arrivare subito al sodo e quello che invece sta chiuso in se stesso. Ma d'altra parte però non ci sono soltanto, come dire, non è solo la vita, non è solo bianco e nero, e quindi ci sono anche molti ragazzi che rappresentano quelle tra virgolette sfumature, che magari fanno il passo e poi si ritirano indietro. Dipende, poi dipende secondo me anche molto da noi, da come riusciamo a metterli magari a loro agio, se riusciamo a farli aprire, perché loro spesso sono un po' apparenza, nel senso che hanno un atteggiamento di forza esteriore e poi ma sono poi, gratta, molto, più fragili di noi. Molto più fragili di noi. Professoressa Giommi, un commento a Mari prima di andare al nostro GR. Sì, mi sembra anche a me che ci sia questo aspetto che a volte appunto c'è un'illusione, no? Cioè se una donna riesce senza sentirsi in crisi ad aprire ad una confidenza diversa e a facilitare, molto probabilmente poi anche i maschi sono in grado di tirar fuori i loro sentimenti, quindi forse bisogna un po' togliere l'aggressività per permettere che escano le emozioni. San Valentino, la festa degli innamorati che si scambiano baci, a volte il primo bacio. Ne parliamo oggi con la professoressa Roberta Giommi e anche con i giovani protagonisti di un film. Devo dire, ragazzi, ci sono tantissimi messaggi dei vostri ammiratori che ci stanno scrivendo. Sono andati ieri a vedere il vostro film e in realtà ci scrivono proprio di consigliarlo. Un bel film che abbraccia l'amore. Ma noi lo sapete, ragazzi, che noi portiamo buono, come si dice, eh? Quindi Franco ci chiama da Bergamo, buongiorno. Buongiorno a voi. Franco. Io permetto che rappresento la famiglia, il genere di famiglia nuova, cioè il divorziato con la nuova famiglia. Quindi ho due figli maschi e ho acquisito due figlie femmine. Sì. Tutte più o meno della stessa età, quindi vedo quando ci si racconta anche in famiglia, eccetera, una grande differenza che negli ultimi anni si è creata forse tra i maschietti e le femminucce, nel senso che poi sono saltati alcuni parametri che non erano giusti prima, adesso violentemente stanno arrivando dall'altra parte. Vedo i maschi molto intimoriti anche a esternare, se vogliamo, quella parte di sensibilità, di romanticismo. Sì. E le ragazzine che al contrario sono a volte violente negli atteggiamenti, e poi di fronte a una festa come San Valentino sono in giro a cercare le coccole, cioè tutto quello che è giusto che ci sia alla loro età. Certo. Ecco, l'unica cosa che vedo è che nei maschietti sta saltando un attimino qualche, non dico regola, ma qualche convenzione, e sono sempre più impauriti nei confronti delle femminucce. E quando ci si racconta anche nelle nostre età, io sa che però, Franco, anche questo è una cosa che viene tirata fuori non solo tra gli adolescenti, ma quando chiacchieriamo tra donne, professoressa Giommi, quando si dice non si trovano più, no, i ragazzi di una volta, gli uomini di una volta, perché le donne sono troppo aggressivi e gli uomini hanno paura, è un discorso un po' che ritorna. E Franco ci descrive una situazione, un po' una famiglia alla Cesaroni, no Franco, per rimanere nei film, ragazzini intimoriti e invece ragazze un pochino più sciolte, se vogliamo dire. Professoressa Giommi, poi chiediamo anche ai nostri ragazzi. Ma credo che appunto le ragazze mostrino di più delle contraddizioni tra il desiderio di essere energiche, affermative, a volte appunto così energiche da spaventare anche i coetanei o quelli un po' più grandi, e nello stesso tempo poi hanno bisogno di riti, di corteggiamento, come se fossero appunto romantiche o timide. Quindi a volte io trovo nelle ragazze piccole questo doppio, cioè di essere così spregiudicate, aggressive, e poi di volere antiche cose come il corteggiamento, la lettera d'amore, i fiori. E dall'altra parte appunto i maschi si fanno intimorire troppo, perché poi in realtà a volte grattando semplicemente la superficie poi si trovano sotto ancora tante cose che somigliano al passato e che sono sempre appunto legate alle cose importanti, l'amore, le emozioni, il desiderio di conoscersi, la gelosia. Mari, secondo te queste ragazzine di oggi che sembrano grandi, ma in effetti sono così bambini, intimoriscono davvero i loro coetanei? Probabilmente sì. nel senso che l'uomo è quello che da sempre, no, vuole un po' gestire la situazione, quindi forse oggi i ragazzi si possono sentire spiazzati da questa nostra voglia di voler fare tutto, che poi in realtà secondo me è una sorta di voglia apparente, nel senso che forse vogliamo soltanto rivendicare l'idea di essere definite il cosiddetto sesso debole, e quindi è soltanto una voglia di affermazione maggiore, ma poi appunto a quale donna non piace essere corteggiata, ricevere fiori, essere coccolata, accudita, protetta, quindi dovrebbero farsi dovrebbero essere un po' meno spaventati e continuare a prendere in mano la situazione, o comunque gestirla in due. Emanuele, tu non mi sembri un ragazzo spaventato, almeno non hai più l'età dello spavento. No, io penso che ci debba essere molta, cioè se uno si tranquillizza che nella coppia ci deve essere parità, allora non c'è spavento, cioè l'importante è che ci sia fiducia, poi tanto defida sempre la donna. Questa è una lezione che hai imparato rapidamente. A proposito di decide sempre la donna, chiedo a tutti e tre, perché mi incuriosisce molto, un programma che davvero gli adolescenti guardano tantissimo, Uomini e Donne, dove c'è questa idea del tronista o della donna che verrà scelta, e secondo me ha proprio un po' modificato anche l'idea di pensare cos'è costruire una coppia. Io sono molto colpito dal fatto che nei dati di ascolto questo risulti ai primi posti, non solo tra gli adolescenti ma anche tra i preadolescenti e le bambine di 9-10 anni. Questo sul preadolescente mi ci colpisce, ci spalanca un mondo a cui non siamo abituati. Volevo chiedere alla dottoressa Giommi se nella sua esperienza davvero vedere tutti i giorni un programma così dove si parla dell'amore facendo ruotare intorno al trono e al tronista può modificare le aspettative che i ragazzi hanno nel loro percorso di crescita? Ma appunto lo guardiamo come esperti in maniera preoccupata, perché in realtà rinforza tantissimo lo stereotipo, e tra l'altro appunto usa la seduzione in forme quasi di dipendenza, cioè quindi guardandolo da grandi crea delle preoccupazioni. Penso che dei ragazzi giovani sia interessante lo spettacolo, cioè per esempio gli piace vedere l'esagerazione, no? Cioè come fosse un cartone, cioè io ho questa fantasia che sia appunto proprio perché esasperato come fosse Gargantua e Pantagruel, cioè nel senso qualcosa di grottesco che alla fine diverte proprio perché ci sono delle esagerazioni. La preoccupazione potrebbe essere se fa sì che si crei uno stereotipo mentale e poi guida un copione nel rapporto tra maschi e femmine. In linea con noi abbiamo padre Alfonso da Brescia. Buongiorno padre. Buongiorno. Salve. Eccoci. Dunque volevo intanto farmi un regalo, visto che oggi è l'anniversario della mia ordinazione sacerdotale, per cui è stato ordinato a San Valentino lei? Esattamente, sì, il giorno di San Valentino di 12 anni fa. E niente, ho sentito un attimo per radio e ho voluto così portare il mio ricordo personale. Prima di entrare in religione ho avuto anch'io le mie vicissitudini sentimentali, sì. E a proposito del bacio volevo dire questo, volevo come esortazione ai giovani che magari sono in ascolto, così: non bruciate le tappe, gustate ogni momento progressivamente, tappa per tappa, momento per momento, perché il bacio, senza voler tirare così in causa la tradizione cristiana, il bacio rappresenta il primo momento di un'intimità sempre maggiore, insomma, e così depauperarlo, non coglierne le sfumature, la ricchezza, insomma, significa arrivare nella fase successiva a non gustare appieno l'unione fisica, ecco. Per quello che mi riguarda, ho dei ricordi naturalmente bellissimi, intensi, fanno parte naturalmente della mia fase adolescenziale, quella fase forse in cui tutte le sensazioni vengono vissute in maniera amplificata. Insomma, da una parte sono contento della mia consacrazione religiosa, dall'altra invidio, ecco, quelli che hanno la possibilità di accostare le labbra alle labbra dell'amato. Guardi, io e Alberto siamo qua e devo dire contenti e soddisfatti del suo intervento, padre Alfonso, perché mi sembra che il suo sia un messaggio che è arrivato proprio dritto dritto. Ci ha fatto una confidenza, abbiamo condiviso un momento importante. Probabilmente anche la dottoressa Giommi può condividere il suo messaggio oppure no, dottoressa? Sì, mi sembra molto bello che uno appunto conservi delle tappe precedenti a una vocazione appunto per sé, la capacità di ricordare memorie belle delle esperienze. E tra l'altro anch'io penso profondamente, lo penso anche quando lavoro con le coppie, che il bacio profondo è proprio un assestare il proprio corpo vicino a quello di un altro e trovare un'armonia. Quindi il bacio, conservarlo e viverlo come pre-sperimentazione anche di altri contatti, credo sia è importantissimo. Importante. Allora, buon San Valentino a tutti, alla professoressa Giommi, a Mari Patruolo, Emanuele Bosi, a padre Alfonso da Brescia che ci ha chiamato e ci ha fatto molto piacere. Alberto, noi torniamo dai nostri San Valentini, stiamo sforando, quindi salutiamoci rapidamente. Buona giornata. Buona giornata a tutti, al prossimo sabato.